sveglia, e poi non bisogna avere troppi picchi di modulazione, perché se li metti qui, cioè tipo i 48 che magari ti danno 2-3 watt, però poi te ne danno 10 o 20 modulati, è quello che ti fa saturare. Come moduli li dà il picco, bisogna avere pochi watt e che siano costanti, non troppi picchi, perché se picchia forte di watt siamo sempre lì. Sarei curioso di vederli dentro, vediamo se c'è qualche foto su internet del B2002. Prova a vedere, prova. Il B2002 mi sembra che ci abbiamo 750 dentro, adesso non me lo ricordo. A Massimiliano devi chiedere, lui è preparatissimo in queste cose. Io un 1002 avrà. Capito. Dunque il 507 c'ha il 550. Informando e localizza. E c'è la chiesa di alimentazione e la chiesa di mia. Cazzo, sta lì. Vabbè, arrivi forse il tuo spagnolo. Mattano a tirare. Cosa posso fare? Non posso fare niente, Cla. Più che attaccare il microfono preamplificato. Ma ne ha giugavato, dai, no. Microfono normale per quello, eh. Ah, io spegnete tutto, cambio. Ehi, ehi, lo so, Mattarino, lo so, purtroppo è così, e cosa avete voi, è un casino, e buh. Io qua non arrendiamo, ci vengo ora, ciao, già. Questi spagnoli sono allucinanti. Ho trovato un video, Claudio, sì, è vero. Dentro c'è proprio quel lineare lì e si vede anche le alette, ciao, capito? E questo lo sta provando quel famoso Francesco Luna Rossa che ogni tanto parla con noi, mi. Si ora dalla potenza finale di quasi 450 watt. Cos'è tutte queste scariche che ci avrete buco? Sono io. Scariche? Forse abbiamo parlato in due. Forse hai parlato assieme a Gianni, non lo so. Gianni, riprendi tu. Ehi, dai, ho attaccato il magnum adesso, dai, come mi ascoltate? Già, un altro pianeta, un'altra cosa. Vabbè, ognuno ha le sue prerogative, diciamo. No, nel senso che un'altra radio, un altro pianeta, qua c'è l'eco, un altro tipo di modulazione, dai. E poi vi ho messo in colonnina, adesso questo qua, il magnum, siccome l'ho messo sopra l'altro, gli tappo la colonnina, e allora gli ho messo la colonnina esterna, non so quanto vi sento bene con i filtri. Certo che sì, la colonnina esterna la vuoi dire tanto, vabbè, questa è la tua modulazione già, da secoli che tu esci così, quindi adesso sei tu, anche con gli altri si capisce che sei tu, però questa è un'altra cosa. Un altro pianeta, ti ho detto, un altro tipo di radio, vai da lì. Colonnina stai usando già? Questo è il magnum col microfono suo, con l'originale. No, la colonnina, volevo sapere la colonnina, che colonnina è, che me la devo buscare una. La colonnina è quella dell'Ara, però è quella grande, quella non quella piccolina ma quella grande, con i filtri. E ce l'ha quello della GBC o quello Fusaro? Non lo so, perché io l'avevo comprata da internet. Poi magari ce l'hanno anche qua. Guarda, se Midland cercala da GBC. Infatti. Scusi, c'è A per sapere che colonnina è. Aspetta che tonto. Poi se dietro c'è il codice non lo so, devo guardare. Gianni, che forma ha? Ha qualche tastino sul frontale? C'è scritto noise filter on off. E poi c'è scritto Alan sopra. Noise blanker, cioè. Noise filter. Sì, eccola qua. Vediamo se dice il modello. AU30 Alfa Uniforma 30. Attenzione, tuni, attento. Che casino, copiata Natalie. Natalie, non ti sento di radio. La cerco. Cioè, sento lo spagnolo sotto, te ne immagini? Lo spagnolo che spagnoleggia, sento la radio sotto, modulazione sotto. Oh, e non risponde, va bene. Comunque, AU30, prezzo 25 euro e spiccioli, dai. Io se quella avevo preso un'altra lì, quella della Proxel, vabbè, mi piace la forma, poi una vale l'altra. Quella della Proxel che aveva tipo un noise filter, no, che rendeva più cupo il suono, per togliere proprio il, sai, quel friggitrice del QRM, no? Che poi è un filtro che abbassa i toni, e poi aveva il tastino per abbassare l'audio istantaneamente di molto quando ricevi telefonate, roba del genere. Capito. Midland AU30, altoparlante euro 22,90 su eBay. Eia, aspetta che ti mando il Proxel che ho io, cioè ti mando il modello, poi scegli tu. Tutti hanno la staffettina, sono comodi, li puoi montare in macchina, li puoi montare in stazione, capito? Guarda che la mia è grande, la colonnina, non è piccolina, Quello che ha. No, no, ma tu vedi che è grande, questa c'ha la stampa. Ehi, ha la stampa, c'ha sì, la stampa. Sai qual è quella piccola, Gianni? La AU20, quella è piccolina. Molto piccola, troppo piccola. Quella ce l'avevo in macchina io. E com'era il suono? Buono, andava benissimo. Io ce l'avevo lateralmente, posizionato lateralmente, si sentiva benissimo. Pensa che io la GBC avevo trovato quell'altoparlante a tromba della Midland, a forma di cono, no, dentro, sembra praticamente a frequenza molto alta, è impermeabile per uso esterno. E l'avevo montato nel cofano della macchina, attaccato al PA del baracchino, tipo donna è arrivato alla rotino. Ehi, noi ce l'avevamo nella Land Rover quando facevo servizio ambulanza, solo che spinge poco, capito? Cioè c'ha tutti i toni alti e ci voleva un amplificatore almeno, perché il PA del baracchino ci avrà 2 watt, 3. Ti metti la notte, donne, volete rifare la punta della matita dei vostri mariti? È arrivato l'arrotino. Cava gara. Come sto andando adesso, Claudio? Guarda, 1, 2, 3, prova gabbia. Sei satiro. Vera? È un po' sì. Però capibile, però ci sento un po' di saturazione, anche attenuando, ti ho attenuato, un po' si sente, ma niente di preoccupante. No, ma qua posso abbassare, guarda adesso. Abbassa. Io che sei. Guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, è comprensibile, si sente un po' di compressione, ma già va bene. La posso abbassare ancora di più, guarda. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lascia stare così, va bene. Gianni, riesci a vedere quanti watt ti dà in uscita così? Così è già pulita, sembra pulita. Sì, adesso me ne sta dando in questo momento 25. Vabbè, un po' pochi. Però e come mai quello ne dà circa, vabbè Claudio lo sa quale, anche tu lo sai quale, circa 70 con 4 watt puliti di modulazione. Ma non è che i finali hanno sofferto, usati tanti anni, no? No, è perché l'ho abbassata, adesso stanno lo concentro, guarda, 1, 2, 3, prova. Però va a inficiare sulla radio appena appena, sempre, cioè sulla modulazione un pochino tende a, ma poco meno, certe volte eri molto più saturo, Guarda, adesso 1, 2, 3 sta andando da 50 a picchi di 90. Accettabile, dai, accettabile, cioè sei capibilissimo comunque, niente da dire. Quindi se devi chiamare quando ci sono queste propagazioni va più che bene. Ehi, picchi 90 voglia, nuda mai detto. No, non è che ha sofferto, cosa io posso regolarlo dall'apparecchio, capito? È quello che c'ha di bello questo apparecchio, che per regolare il watt in entrata e in uscita, capito? No, perché sentendo discussioni dicevano che i finali magari più li metti sotto pressione, no? Più pompi, più meno vita hanno, no, perché magari non sono eterni. Ma poi ti può durare anche una vita, chi lo sa. No, ma ci sono quelli scriteriati che gli danno 20 watt d'ingresso, convinti di averne 150 d'uscita, e poi li crepano in finali proprio. Allora, nel 2009 una persona mi ha detto che gli ha dato 17 watt, gli dava, e andava benissimo, non ha mai fatto problemi. Ah, di ingresso, boh, però non lo so quanto durano i finali poi. Poi dipende quanto lo usi, capito? Cioè, quando lì c'è una morte di papa ti dura comunque una vita, ti dura. Se non hai stazionaria ti dura una vita. E quindi il problema non si pone. Va bene, dai, mi stavo guardando qua un po' di prezzi, un po' di... Riprendete un po', fate girare, dai. Che... Sempre io devo parlare. Vai Claudio. Sì, anch'io qua sto facendo, anche sto preparando il lavoro per domani mattina, che devo andare a volvere nuovo. Ok. Ma io ce l'ho 747 già, ma più di 80 watt non dà. Vabbè, io lo piloto sempre con 4 watt, 4-5 watt modulati, 80 watt, 75, 70, cioè, dipende, quello è. Se poi chiaro le do 7-8 watt, allora è diverso. Però io preferisco avere qualche watt in più in uscita, ma la modulazione deve essere pulita, capito? Così come ho fatto al B300, così come ho fatto all'altro che c'ho, ce ne ho 3-4 ne ho lineari da macchina. Il più grosso è il B300, gli altri sono, il più grosso è il B300, un par di pali, il più grosso è quello della RM Italy, quello a 2 ventole, quello è il più grosso, ma non è la macchina comunque, quello è 0,30. Va bene quello lì, se andate in quinta marcia, cavolo, va più che bene. Di solito non saturavano all'inizio, e poi quando mettevi l'ultima marcia saturavano un bel, tutti così sono stati sempre. Mi ha fatto le prove continue anche lui, la stessa cosa, quinta e sesta satura, perché c'è troppo ingresso, invece è preferibile perdere 10 watt in uscita e non cambia niente, per avere la modulazione buona, anziché per dire averne 200 di watt ne hai 180, cosa cambia? Non cambia niente, assolutamente, fatte le prove, non cambia niente, quindi io preferisco così, anziché averne 200 ne ho 150, non me ne frega niente, quando serve lo attacco, quando non serve lo lascio stare spento, se poi voglio attaccare quello grande, allora lì ce ne sono 400, quindi non c'è problema. Ti ho mai sentito l'altra notte, tu c'eri anche, no? Molto ti arrivavo, forte ti arrivavo. Quando? Quando stavo parlando con Fabio, anche c'era Antonello, che c'era Gavino, Massimiliano a casa di Gavino, forte ti arrivavo. Ero griglia, ma quanti watt ci avevi? 1500 watt? 800, 780. E gli arrivavi forte, disturbavi anche i canali, tutti i canali, entrava tutti in basso. I vecchi tempi erano così, io da qua su mi vivevo tutti, ero grigio, Buddha è quasi 1 kW l'antenna, ma non lo uso mai quello è l'unica cosa che io non uso mai, capito? L'ho tolto così, adesso ad esempio l'ho rimesso a posto dentro l'armadio, era giusto per divertirmi, dai, per far capire a qualcuno che Claudio Sparviero c'è sempre, non vi preoccupate che c'è sempre. E anche lei lo ringrazia. No, non è a valvole, Ghisio, quello è transistorizzato già. Ah, non è a valvole, pensavo di sì. No, quello è lo stato solido. Quello è lo stato solido, non è a valvole. Quello è 1 kW allo stato solido, un mostro è. Cos'è, un 2001? No, RM Italy. No, non lo conosco, vabbè, comunque già andava bene. E già lo grido, tutto a MOSFET, c'è 2 ventole sopra, amplificatore d'antenna, tutto c'è, correttore di modulazione, tutto c'è. Mi, ma già lo conosce Marco, l'RM Italy che cosa fa? È un 030 HF e quando schiacci la portata, cambi di banda, no, no, lui cambia in automatico, c'è il selettore di cambio di banda automatico. Tu sei 27, vuoi passare in 10, vai in 10 e lui cambia relè, commuta in 10 metri automaticamente. Cazzo, gli ho messo di sopra modulare, ma te ne mangi? Stanno voi 15 qua, cazzo, adesso mi ha rotto le balle. È bello che ti sentono e non ti rispondono, capito? Perché sono cuoco, ma gli amici di Natalino sono. Oia, Natalino, aiuto, cosa ci vendi? Amici di Claudio sono. Amici tuoi sono cuoco, ma guardami Gianni, RMI tra i capelli vuoto 100, guarda quanto costa, va. KLV, V, quindi valvolare. Vediamo un po' che ho sistemato il capo, mi sentite? Sì. Sto dicendo sì, Lu, sto dicendo il KLV, guarda quanto costa il KL, l'MRITA, l'800, KL 800, K800, cazzo ci faccia, vabbè, dentro l'armadio adesso non ce l'ho qua, guarda a vedere, sì Lu che arrivi. Vabbè che all'idio la pizzeria da pagnante. Se lo fanno ancora, mi sembra che fanno l'805 adesso, non lo so, buh. No Marco, questo è. E poi, vabbè, no, non ce l'ho io, ce l'ha Stefano, un KLV 800. Un'altra bestia, quella è valvolare, sempre della RM Italy. Io l'avevo fatto quando ho portato, capitavo. Perché per oggi ero, mi ha 10 minuti e poi me ne esco col cane. Ah, ma non è un amplificatore per casa, è di quelli per macchina. Cosa già? È per macchina, Ma cosa? Ma lo stai guardando? RML KL 800, 24 volts. Ah, forse questo che è per macchina, forse ce n'è un altro. No, quello è 24 volts, 12 volts devi guardare. Cioè 400 euro costa. Anche quello di macchina costa. Perché tu prendi 400 di più? No, quello di macchina sto dicendo costa intorno alle 400, quello che c'ho io, quello che c'ho costa di più. Sì, già lo credo. Mi ricordo la RM Italy faceva il KLV1000, non so se lo facciano più, è spettacolare vederlo, già era. Quello c'è la stessa, tutto elettronico. Solo che ne ha Dolby, con la base che c'è in HF da lui, trasmette Dolby. Faccio il fratello di quello, ok, il fratello di quello, KLV1000, il fratello è transistorizzato, senza un kilowatt. Già, sento l'armadio, quando lo tolgo ti faccio la foto e te lo mando. Il 1000 costa 750 euro. E l'800 quanto costa? 805, che sigla c'è adesso? Dovrebbe essere intorno ai 550 o 650 euro, adesso non mi ricordo. Ma schiereggia forte, quello schiereggia forte, tutto automatico, cambia di banda e cambia lui. Grande amplificatore. Grande amplificatore, poi oggi i radiomatori sono tutti con lo stato solido, usano gli amplificatori, le valvole ormai sono passate, tranne Walter Salvucci che le piacciono le valvole. Infatti c'è anche VIP, la versione VIP, ti danno, te lo fanno colorato, sì, radica di noce tipo. Radica, ma cosa sto dicendo? Vabbè, radica, già capito. Sì, quello è. E invece l'RM Italy transistorizzato grosso cosa farà? Boh, mo guardo. Ma sì, lo intercio io è fino a 1000, lo stesso. Però è uno stato solido transistorizzato. Tanto io ho quello l'800. Sì, vediamo se mi fanno vedere uno straccio di immagine. Faccio prima andare al sito, dai. L'800 a me mi dà solo quello di macchina, non mi dà quello per casa, lo sai. Lo puoi mettere anche in macchina, ma guarda quanto è grande. Quello c'è la Vittorio Giove nella furgonetta dietro, appeso, in orizzontale. Ma c'ha due ventole enorme già. E cazzo è quanto è un BV 1200, una cosa del genere. Ma cazzo te lo metti in macchina? Vittorio ce l'ha dietro, ce l'ha sotto. Quello ce l'ha dietro, ce l'ha sotto. E vabbè, ma comunque in macchina, quelli lineari a me mi hanno sempre dato l'impressione che in macchina rovinino le centraline. A me me l'hanno fatta partire la centralina dell'astra, come partita. E ne avevi uno piccolino, ma niente a mettere un bastione del genere. È grande già. È enorme, non è piccolo. Chissà se c'ho qualche foto per la mano. Io già l'ho visto, c'è scritto MRR 800 KLD 800 eccetera eccetera. Sì, l'ho visto, è azzurro davanti, c'ha le ventole sopra. Grande, non è piccolo, non è che è un bolbo di macchina. Poi ci avevo mandato a Massimiliano, non mi ricordo, però è un bel grande. Grande. Allora leggo BLA 1000, bravo Lima Alfa 1000. Ma, vabbè, ti aspetto, non è eccezionale, ma quello che c'ha sotto, stato solido, Sì, stato solido, sono una bestia, non sei bufani. No, non ce n'è per nessuno. Quando usi quelli esci pulito, senza nessun problema e con grande professionalità, capite? E con grande spinta. Mi dirà Gianni, vi ho già fatto la Carotti. 750 ne stava parlando, bravo Fanici. Arrivavo a Gavino, gli ho anche dato lo Smith lì in via Nulvi, vicino a Gianni. Sì, ma cosa ne fai qua? Almeno che devi parlare con l'America o qualche posto lontano, ma se no cosa ne fai? Non ne uso io infatti di quello, io ce l'ho attaccato in HF, che cosa devo trattare? Un applicatore leggere in AM, lo stavo solo provando. Quello io ce l'ho attaccato in HF, capito? Quando faccio HF, non mi frega niente mai di usarlo, se me ne frega. Però ce l'ho, non è che non ce l'ho, no, figurati. Eh beh, certo, ogni tanto, ogni tanto si usa. Beh, passiamo al Galaxy, adesso, li sto facendo sempre girare, tutti i giorni li sto facendo girare. Prego, prego. Avanti Massimiliano, buonasera. Gappa, buonasera a tutti, dai. Buonasera e ben ascoltati. Ciao Massimiliano Bulldozer. Mica adesso ti mando la foto, va, che era in terra. Vedi un po', cazzo, c'è un bulbo in macchina, una cosa del genere. Vabbè Massimiliano, lavorato? Adesso sei uscito? No, mi stavo facendo una prolunghetta, anzi adesso che ci siete me l'attacco, così mi date un controllo, si innesca e tutto, va, aspetta. Ehi. Ciao Massimiliano, ben entrato. Questo è il gemello di quello che c'ha Stefano, guarda questo, preciso identico. Preciso identico, BLA 1000, così. Il mio è il figlio di questo. Eia, mamma mia, già fa paura a me. E poi è HF questo, cioè non è per la 27 solo, questo vedo che c'ha tutti i cosi delle bande, no? 160 metri, 80, 40, 30, 20, 15, 17, 12, 10 e i 6 metri anche. Oh, guarda un po'. Va bene, però sento gracchiare Massimiliano. No, il microfono questo, aspetta, guarda così. Va bene. Quello che sente il microfono, Lui. No, non rispondere Claudio, mi sei incasinato, non so come chiudere. Tira su la leva rossa. No, si è chiuso da solo, dai. No, ti ho chiuso io. Ah, meno male, che qua è sparita la schermata, capito? Eccomi. Va bene, allora ho fatto un buon lavoro, va. Domani la proviamo sulla barra. Oh, ma mi sentivi lì a lavoro? Sentivo, il Santiago 5-6. No, il suo microfono, aspetta. Ecco, il microfono, grazie. Guarda Massimiliano, ma oh, Marco, si può buono in macchina una cosa del genere? Aiuto. Cosa? No, Marco, sto dicendo. Allora, questo lo puoi mettere sotto i sedili di dietro in orizzontale però, capito? Non di lungo, di traverso. E piglia tutta la larghezza, è una cosa allucinante. Va, e quando lo uso volevo mettere da una parte all'angolo, cavi lunghi, è un bel ragione, cos'è? già messo, Claudio, non ho già tutto a posto. Se vi stavo ascoltando, cioè stavo ascoltando a te perché gli altri non li sentivo. Dentro la cava arrivi Santiago 5C, ma io non ci arrivo perché non c'è sostanza sotto là. Beh, è un mostro, non lo muovi. No, non lo so, non so, boh, forse ne prendo uno più piccolino, un centinaio di watt. Non ho voglia di... c'è poco spazio, capito, Cla. E allora lascia stare così, ma lo so bene a tutti, tanto. Io, beh, queste mattine non posso, ma a casa un po' non ci sono. A sua mano, ad esempio, non ci sono. Lo stesso, una mattina, vabbè, esco presto, ma rientrerò a metà mattinata. Magari però lì, capito, parli con i tuoi colleghi, qualche camionista, qualcuno, dai, quindi ti fa compagnia. No, ma io ti ho sentito se hai parlato, Se hai parlato io ti ho sentito, basso ma ti ho sentito. Com'è l'occasione fa del tuo vecchio affabba? Qua. Casino c'è, no? Massimiliano. Se giramento di carattere. Oppure l'ho spruzzato ieri. Vabbè, secondo come lo schiacci. Ehi, ehi, a cavolo. Ehi, vabbè, ero dentro un buco là. Comunque. Va bene, ti ascoltavo. Massimiliano. Ehi, a chi è? Ehi, Gigi qua, dai. Ehi, chi sei, Gigi? La trotta, va? No, aspetta. Aspetta, cambio il microfono, aspetta. Ehi, se scendi male, per carità, va male. Ehi. Ah, io, Claudio, ho riattaccato di nuovo il coso, dai. Il commutatore, adesso c'è quel cavetto che è un po' così, dai, il cavetto che ho fatto. Guarda un po' com'è, va bene? Il segnale è tuo adesso, adesso vanno bene. Ok, dai. Cappa, basta, non ci più caro. Cappa, cappa, dai, fate girare che inizio a prepararmi, io sono già alle 7:30, ragazzi, vai, doppio room. Ehi, ha attaccato il professor adesso, come va? Ogna pulotto. Lo passo. No, dicevo il proxel, è un bel forte. Stavo pensando di riprovare vabbè, adesso ho staccato il coso, là, non la giugana. E volevo provare il microfono del presidente nel colt. Guarda un po'. Bene va. Ehi, aiuto. Aspetta che sto vedendo questo cacchio di microfono. Guardate se vi sentite bene lo stesso così. Perché mi fischia se c'ho al massimo il mic gain. Capito, mi fischia, così invece non fischia. Come va la modulazione? Malattoloso. Positivo, è la marrogna, dai. Sì, sì. Come si stanno i problemi ora te? Prova a cambiare. Guarda, lo tengo così distante, guarda a vedere, 1, 2, 3, prova. E vabbè, la timbrica sua è, c'ha toni bassi, io non amo i toni molto bassi. Perciò anche, lo sai che nella mia modulazione mi piaceva più l'M93, mi ero registrato nell'altra stanza con un baracchino che ascoltava senza antenna e mi piaceva più l'M93. Ma mi sta fischiando questa merda del microfono, non capisco il perché, non ha mai fischiato, abbassalo. Scusa già, ma tu ti stai autoascoltando? Non mettere mai autoascolto né nulla, mi. Aspetta. Quello è amplificato. Già fischia l'autoascolto delle... come si chiama? Quell'apparecchietto digitale, mi. Positivo, caparroio, rade, caterra. Io devo, in poche parole, devo un attimino registrare questo microfono. Se mi dite come sta andando adesso. Bene qua. Perché qua? Allora, guarda. Allora, così... guarda così come sei più forte. Ma ci spostiamo questa cacchio adesso al 14. Questi spagnoli mi sono veramente un fiende le balle. Scusando il termine, ci spostiamo al 14. Ma sì, te li fuori cucciolato, eh sì. Oh, mamma mia, non sei più dove ci sono entrati, una massa che qui li varia. Spagna, scusi qua a nord della Sardegna. Ma è pigata scalloni, sì. Figli, ispanico, hijo de puta. Scalloni, signor! Andiamo lì, Gesù culo! Che cavolo, è tutta la sera qua a casa rompendo le balle, ma a me non sente la gente che parla. Tutta la sera, tutta la... usi il casino. più di 6 metri. E poi sta ruttando. Che regalo. L'ho sentito il 3009, via. No, negativo, sono entrato adesso. Sì, però io mi sto regolando questo microfono, siccome c'è un primerino, mi dovete dire come sta andando adesso. Sta andando molto bene. Un po' citofoni in casa nella Siria. Allora, ora, è così? Così è quasi chiuso? Guarda così, oh Luca. Poco ha cambiato, già va bene Massimiliano, va bene. Aspetta, no, ora. E così? Prova. 1, 2, 3, prova. Non è cambi molto, Marco, tu, secondo te, come non cambia molto? Ora, eccolo qua. Così, guarda un po', l'uraria. Lascialo così, dai, va bene Massimiliano, che microfono? Un CTE, però c'è un buchettino dove c'è un primerino, no, non è biagio, aspetta. Positivo, dai, fratello, non ci saranno problemi, dai. Prova. Ora, 1, 2, 3, prova, guarda un po'. Eia, va bene. Ok, là, lo lascio così. Così mi sta dicendo, no? Non ho sentito il 2009, mettilo. Claudio, vabbè. Guarda, lei, guarda, ma sì, 2009, 1, 2, 3, prova, poi mi più 4, vai. Abbiamo preso la LC. Bella, va bene. Va bene? Benissimo. Comunque c'è un bel di grafico, Massimiliano, un bel, vabbè, pazienza, ormai qua non posso stare in chi va di lì, un tipo a... Nella foto non si vedeva. Nella foto sembrava tutto in ordine, È tutta piena di grafici, c'ha la manopolina, quella dei canali, il manopolone, pari si è scongiurendi. Addirittura. Scappa gli erosmetro. Ciao ragazzi. Claudio, ci sei? Perché? Ehi, ciao Gavinù, vabbè. Santiago 9, prova a staccarla. Sempre Santiago 9, sì. E beh, lo smitter ti sale. Aspetta un attimo, Massimiliano. L'hai visto. Cos'è Luca? Luca, lo senti a Gaviluccio lì da Sennori? Luca, Marco, lo senti a Gaviluccio da Sennori? Oh, io glielo sento. Ciao Gavinù, buonasera. Sto andando a portare il cane, Massimiliano. Stavo preparando. Ciao Gavinù. Quanto ti arriva, Craig? Gli ho messo a posto un po' l'impianto domenica. Prova Gavinù. Quasi Santiago 7, sì, Gavinù. Massimiliano. Santiago 7, Radio 5, sì. Guarda, prima ti ascoltavo molto più basso. Già va bene. Dai, riprendete voi e vado a portare il cane. A dopo. Ok, là. Ciao, Claudia. A dopo. Sì, già va bene. Là. Marco, tu lo senti a Gavinuccio? Marco, non c'è. Lo più rumo, ci sei? Luca. Fai un passaggio, Massimiliano. Dimmi, Luca. Io. E fa un passaggio, vai. Eia, 1, 2, 3, prova radio, Luca, mi ascolti, 1, 2, 3, prova. Ti ho mandato il video su WhatsApp, là. Così vedi la radio, vedi quanto arriva, dai, guarda anche lo Smith, diciamo che c'ha il vetrino dello Smith un po' graffiato lo stesso. Mamma mia, va. Ma non è che ti ha mandato una carraglia, visto, perché la foto sembra molto nuova. No, volevo capire, Luca, lì, se ascolti a Gaviruccio. No, non arriva qua, niente, zero. Prova, Gaviru, aggancia, io. Ma lui mi ascolta a me. Ma tu lo ascolti a Luca, Gaviru? No, non ti ascolta neanche lui, o Lugaria. Male non c'ha tante gatte naccia. Così, vai, una di quella energy, di quelle là, capisci a me? Ci è mandato un ballino, Massimiliano. Modifica giù, va in Dughissa, modifica giù. Guarda, sento l'eco, gira meglio questo microfono, però. Sabattino, dai. Ma te la 100? 180? 60. Spedita? No, più una spedizione. Mi va la cucciuccia che mi ha dato che della Iana, ve la giù vicino, va. Cosa vuoi? Ma cosa vuoi che mi stava chiamando? Cosa vuoi? Non vuole parlare. Prova Gavinù. Sempre 9 arrivo. Adesso agganciato, sì. Prova a sganciare. Dai, quasi 9 arrivi, dai, Gavinù. Arrivi quasi 9 qua, dai. Prova a agganciare a vedere quanto arriva qua. Aggancia, Gavinù. Gavinù, aggancia che ti vuole ascoltare Claudio con quello. Senti all'8 arriva. dovrebbe essere a Senoli, a me me ne va molto bene, forse come ho spostato l'antenna. Ottimo, ottimo Gavino. Ma era un fosso. Vabbè, ma adesso l'ho spostata all'altra parte l'antenna, capito? Quindi è più favorevole un po' a Senoli, eh. Va bene, ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Ciao, stavo regolando il microfono, dai. Uia, uia. Ecco, adesso ce l'ho fatta, dai. Com'è la radio, forte o bassa? Già va bene, dai. Con il Mac Game al massimo, non mi ha mai fischiato, adesso sta fischiando. Boh, voglio che ti dica. Aspetta che cerco un altro microfono, se non mi piace. È la giornata dei microfoni. Avanti Marco Condor. Similia, chi c'è? Guarda, questo qua se va meglio, Luca, guarda un po', cambi. Arrivare a Santiago. Cambi meglio, va questo microfono, meglio un po', dai. Arrivo, mi ascolti lì da te, cambi. Mappa veloce, vado via da Santiago. Ai, oggi più, dai, devo dire che sta andando bene. Attenzione Gavinuccio, ascolti doppio un cambio. Cambio. Ah, Gavinuccio, buonasera, dai. Buonasera, dai. Doppio un, Roberto Reggiani, avanti. Vai. Io ti ascolto Santiago 7 qua. Qua è 9, Gianni, qua mi arriva 9. Già lo so che ti arrivano a fare una scala, dai. Probabilmente tu ce l'hai di fronte, Massimiliano. No, ma gli ha eliminato un po' di cose, dai. Un po' di casino che si aveva lì, e domenica sono sceso, mi sono posto un po' là. Sì, già si sente. Cava. Gabi, con che antenna stai uscendo? Che tipo di antenna hai? Come quella di Natalino, però è tutta un po' storta, portata, diciamo. Ciao, la voglio, dai. Oh, io vengo a lasciare un secondino, cerchiamo subito, mi devo staccare un attimo. Va bene. Avanti, sul 10, chi c'è? Avanti. Attenti, spara della scusia all'isola della Sardinia, adelante. Gavino, ma li senti questi spagnoli? Gavinuccio. E qua arriva la Santa da 7 a 9, arriva, più forte di te arriva. Vai, io ci avevo messo Santiago 3 a Senoli, è un po' strano, perché io arrivo 9-9-5 a Sorso, quindi Senoli è vicino. E tu vattene sopra il cucutolo. Ma per macchina ancora ce l'hai? Va bene. Comunque come radio, come mi ascolti, bene? Andare, qua c'è un BDQRM di propagazione e dopo ci sentono e non rispondono, perché detto, ci sono italiani, questo e quell'altro, però li chiamo e non ti rispondono, capito? Ma non libreno, E magari anche propagazione favorevole, capito? E a volte è favorevole per quella zona. Attenzione, canale 10. Spagna, attenzione Spagna, si ascolti la Sardegna. Cambio. Avanti, amico spagnolidos. Attento mi è romano con la scusia l'isola della Sardegna delante del comprendito. Andale, cavagava. Attento stagionaria, Attento mio romano, l'operatore Gianni Delta Romeo della città del Sassari che ti super cordializza. Avanti mio romano. Avanti mio romano, scusiato l'isola della Sardegna, adelante. Avanti, amico stagionaria. Scusi, sono Borsiento, mio romano, avanti. Scusa. Beh, Franco, cazzo che basso che ti sento. In mezzo a un guerrero, sì. Davvero? Sempre lo stesso, sempre la stessa radio, sempre gli stessi vlog. Adesso li ho passati, ci sono gli spagnoli, ci sono, no, eccolo lì, ci sono gli spagnoli a manettone stanno arrivando. C'è per quello a me stanno arrivando 9-10, che stanno arrivando. Ce n'è uno che un po' cose di tutti, su Balavo di Russo. E io quando ti arrivo? 9-5. Io sono con l'apparato piccolino adesso, dai. Adesso va. Col Cobra. E questo qua mi arriva una bomba, arriva. Quindi va bene. La ribasserà. Quindi sono più furbi di me questi qua. Buonasera. E cosa sta? Ma non è un lineare attaccare qua. Già lo sentiamo a Gabinuccio. Io credo che lo sento, almeno in radio. Maglia va bene, dai. Non è che ci arriva a traccia di, vuol dire che va bene l'antenna. E basso basso. Vai, lo sentiamo, ma io lo sento basso. Sì, va bene. Ma di radio lo senti bene? No, perché ci sono gli spagnoli e... capo. Sì, va bene. Avanti Massimiliano, buonasera. Io positivo, ciao Fra, buonasera. Mi sa che c'è anche Eugenio, ho sentito, mi è parso di sentire anche Eugenio. Ecco, Eugenio ci sei? Forse non era lui, là. No, ero giù già e ho rimesso, gli ho fatto una spruzzatina di quell'affare per pulire cosa, il microfono dentro. Hai fatto bene, guarda, io gli ho messo il CRC, ho risolto il problema, ti ricordi che non uscivo di radio a volte. Era praticamente l'ho spruzzato l'aria del potenziome, te ne sono uscite delle palline bianche, poi non so cos'era, se la polvere e cosa. Ho insistito a spruzzare l'aria, poi gli ho buttato il CRC e si è ripreso. No, io gli ho spruzzato un politore della Wurt, perciò. Serve proprio per togliere tutte le incrostazioni, va. Ok, Fra, riprendi. Sempre qua, Massimiliano. Il mio divertimento è finito. Abbiamo messo un po' in ordine a Gaviuccio, domenica. Va bene. Com'è a... Stazionarie? Stazionarie, diciamo, ci vuole un piccolo accordatore che già ce l'ha inserito. Con l'accordatore, allora, quando inserisci l'accordatore senza muovere niente c'ha uno e uno, capito? Senza quell'accordatore 1 e 4. Un confronto non era molto, dai. Ma guarda, se lì si mette una bella canna da pesca in quel tetto e arrivi giù. Un'antenna performante, molto meglio di quella, una 58. Quella che c'hai è una 58, però è, come si dice, è tutta canta bisastrata, là. È un po' messa male. Vabbè. Avanti, capito? Però poi tutto in buri, che cazzo, tutto pieno di cavi, cavettini, un bel roba, là. Te lo ricordi, io non so se tu... quando ero piccolo, alla moto, alla bocca di Bonini, non vedo un pezzo, una volta si impacchiava un bullone, una cosa, noi che puniamo un bullone lungo, no? È proprio un verbo. E così è duro adesso, no, però dai, già è abbastanza ordinato. Ma com'è che avrei capito da sotto qui, tre costelle, avanti capito. Ah, devo tornare? E quando vengo vediamo un po' cosa si può fare di meglio lì, se nel frattempo ti prendo un'antenna. È tutta lì da in plastica, non cosa vuoi alzare quella lì, lasciala com'è, quella una volta la togli si davanti. Non ti fa niente il vento lì, se metti un tubo come si deve. Il vento non ti fa niente, non fai lungo a me, no, che bisogna giudicare libero da tutti i bassi. Ma se no si mette una canna a pesca, come ha detto Massimiliano, che quella flette non si rompe. È quello che gli ho detto. chi è questo basso? Chi è che non lo sento? Chi è? Buonasera. Ciao Tino. Quella di Motrice Pazza che andò a fare a Edo, la so più lì. Fammi mettere un pareggio. Anche quella adesso sarà tutto un pezzo di ruggine. Ciao Tino, avanti, riprendi. Ma chi era? Gio Gabinuccio? Via. Tutto sparato qua, ragazzi. Ciao Gabinuccio. Compagniero, non ce n'è compagniero, no, che è? Zinnaniera, qualcuno Zinnaniera. Dopo 3 ore già venne, lo risponde. Ma adesso senti a me mi risponde, cioè voglio dire. Tanto la sera buttendi. Allora, però non ti rispondono perché ha detto italiano chiama italiano, però non ti rispondono, hai capito? Allora, perché vogliono un italiano vero, e tu italiano vero sì. Ma quando vai? Ma la visione, torna che c'è un microfono, passiamo. Ma non ammara, vai, c'è un microfono, buh. Lascia la gira, Massimiliano, dopo che agisce lo fa un paio di volte qui, dopo che agisce non lo fa più. Sai cosa mi gioco, buh. Mettiti il pulitore, Massimiliano. Appena fatto, Tino, appena fatto. L'ho pulito, gli ho messo... E poi l'ho anche passato un po' di aria col compressore. No, io invece glielo metto e lascio che faccia il suo effetto da solo, senza passargli aria, sennò si asciuga subito in fretta. Invece così faccio asciugare da solo a lui. No, sono rientrato, Massimiliano, ci sei? Quando apro la portante, no? Ci sei, Massimiliano? Un bel puro. Davvero? Beh, adesso non l'ha fatto, per esempio. Sì, adesso si riprende piano piano. Ne prendo uno anch'io così. Cos'è quello? Ma il microfono stai dicendo? Sì, io. Un CTE. Ah, di quelli palmari? Sì. A me non faccio il di venire così. Già l'ho fatto lì, comunque. Beh, cosa vuoi ti dica, boh. Oh, sono rientrato, Fregatene. Sì, yeah, yeah. Sorso, mi senti? Sorso? Cazzo Sorso, Franco! Dico Sorso! Sì, che ti sta chiamando Luca! Ehi, ma non risponde, però se risponde tu non risponde lui! Franco, mi senti? Allucinante! Mi sente, no, Tino? Come no? Luca, chiamalo! Un casino, il tuo canale lo sto odiando, perché mi credo, lo sto odiando il vostro canale, gli sono spagnolo tutta la sera in mezzo ai guglioni, tutta la sera. Luca, prendi la ruccio. Ah, tutti i canali libari, i loghi, proprio i loghi, allucinati, ci hanno fatto apposta. Perché anche loro probabilmente là c'hanno questo canale. Chi ce l'hanno da far culo, cazzo, se proprio usavano anche le persone di qua. Poco fa mi arrivano 9:10. Messaggio, ascolta, come stai ascoltando, fra? Santiago 6, Radio 5. Sto usando il 3009, mi è arrivato oggi. Mi ha detto che è simile all'altra, l'altra dice che è più poco più spinta, boh. La modulazione è chiara, bella. Ok, dai, ho agganciato l'MB più 4, va bene, dai. Da best, avanti Tino. Va bene, dagli più watt però, già va bene. No, lascio così 4 watt, poi appena mi ordino la 747, così non faccio altro che agganciare tranquillamente, senza problemi, non devo regolare niente. Se vuoi ti vendo un B300, No, non lascio più di là, finito. Peggio per te. Troppi soldi, beh, una cosa, ma lasciamo perdere, va. Meglio che mi sto zitto. Cazzo, ma tu sei, se tu non chiedi, anzi tu hai, no, ti correggo, tu hai chiesto, poi hai fatto di testa tua, quindi. Cioè? Ho chiesto, avevo fatto di testa tua, non ho capito. Tu hai chiesto consigli, la gente ti ha risposto, però hai fatto di testa tua. Vabbè, questo qua alla fine il tipo ma non c'avevo un graffio, cazzo, tutto graffiato. E mi si girano le balle, vabbè, ormai è qua, già sto lì a rispedire l'indietro, ma no. Ormai lo tengo così e pazienza, pensate che funzioni bene. Ma nuova l'hai presa? No, l'ho usata, ho pagata 125 euro spedita, solo che il tipo ne ha speso 26 per spedirmela, così ha detto, così me l'ha scritto in alto, 26 euro ha speso per spedirmela. Che cavolo, vabbè. E la tua raffiata, ma che caridai? I tappi graffiati, c'ha, vabbè, interessante che dentro è nuovo, no, non era manco cagato, gli ho espanso. posto io i canali, dai, ho spostato il jumper, come dici, jamma, e l'ho portato a 240 canali. Cazzo. Va bene, dai, ragazzi, io vi lascio che mi stanno chiamando a mangiare. E se ci siete dopo rientro. E poi Massimiliano. Ciao Fra, allora buona carichetta e buon tutto, ci sentiamo le prossimine, avanti Tino. D'accordo, ciao Fra, ciao. Poi ti voglio chiedere una cosa, Massimiliano, riprendi, capito? Ciao Franco, alla prossima, buona cena. Non ho capito, capito, cos'è? Ah, è cosa, non mi ricordo, non mi ricordo più, capito. A proposito, Massimiliano, sai dove posso trovare la vernice originale dei tappi del 48? No, su quello non ti posso aiutare, perché non te lo so proprio dire dove puoi andare, capito, Tino? Ho un carrozziere, se gli porti il tappi te la fai fare uguale. No, così, allora tanto tu va a pagare. Ci devo mettere in conto anche la verniciatura. No, lo faccio io, se riesco a trovare il colore. Boh. È un casotto, vabbè, dai. Non sai cosa fai? Vai dai cinesi, ti prendi quella carta adesiva, quella tipo carbonio, e lo rivesti così. No, no, buono. C'è uno interessato che lo vuole, diciamo, la vernice originale, lo vuole tutto originale, solo che originale eternamente. Internamente vuole un po' di vatte e 120 cale, questo qua è così, capito? Però io lo vorrei dare un po' più presentabile, ecco. E allora ti metti su eBay e ne compri tappi nuovi, cosa hai 15 euro, non è finito il discorso. Il Mobicom che lo vuole, nuovo, 200 canali, perfetto. 30 euro. 25 euro lo sto dando, dai io. 30 euro ti do io, dai. Andà bene, dai, affare fatto. Va bene, dai. Dino, tu quanto ne vuoi per quel coso? Quella specie baracchino. Ma perché mi chiami quella specie baracchino? Ciao, Fra. Non so come si chiama, cazzo. Midland Alan 48. Ah, ecco, Alan 48. KK. Ehi, ma è uguale a un pubblico, poi devi fare uno o l'altro. Mobico, no, non mi piace a me il Mobico. Il Mobico è completo di staffa, è perfetto, è abbastanza, c'è qualche, ma guarda, è meglio il Mobico come estetica che costa 3.900. Luca, non lo metto in dubbio, ma ci stiamo scendendo nelle camere di mezzo, perché io sto vendendo il mio, tu cosa c'entri col tuo? No, nel caso questo qua con un baracchino ce l'ho già, se scapita uno con un baracchino 200 cavalli ce l'ho io, lo so che stai vendendo il tuo, ci mancherebbe. Ah, e tu quanto lo vuoi? Almeno una settantina, ma il mio è nuovo, se lo vedi con il microfono amplificato. Bene, bene, chiedo, se sento qualcuno, chiedo, vedo un po'. No, io per 70 euro lo lascio qua dove. Io sto vendendo il copra, se interessa a qualcuno, portarne più 3, 550 euro. Cazzo arrivi, cazzo c'è vendendo un lineare 200 euro, Duca, aiuto. Sto vendendo un lineare 200 euro, l'ho già venduto, non è che ci ho messo tanto a venderlo. Ma io copra quanto pesce che vuoi per regalare il 200 watt, 550 euro portarne più 3 da tavolo. Se lo vuole, se lo rimane dentro l'armadio, è così, l'ho anche messo su subito, c'ho un sacco di contatti, uno addirittura mi ha detto 500 chiudiamo, no 550, non me ne serve il pane. Un secondo, io mi devo spostare un attimo nel 30, perché Gavino deve fare due prove, un attimino solo. Eia, va bene. Adesso radio, Gatto Borgia, quando è uscita quanto costava? 800 euro costava, 760 euro. Ho detto che fai bene, che siccome pane non ne ho bisogno, fai bene venderlo come vuoi tu, se riesci a venderlo. Altrettanto sono io, non è che mi sta chiedendo da mangiare, quindi se riesco a venderlo bene, se no gli rimane qua. Ma infatti potevo anche togliere 50 euro, ma è questione del principio, perché mi sono accorto che quando vado a comprare io, tutti vendono a prezzo pieno. Certo, quando vendo io tutti devono tirare, allora mi sono rotto le balle. 550 euro, prendo e lasciare, dentro la scatola, nuovo in pacca. In più contarne più 3, quindi se lo vogliono è così, e se no gli rimane lì. Claro, con i telefoni, con tante cose, con quando devo piazzare un'antenna, ti tirano il prezzo, capito? Non ho capito. Così, siamo telefonato, il B300 me lo dai, certo, 120 euro. Come? 120 euro? No, 100, 120. E allora, ciao, arrivederci, buon viaggio. Cazzo di amore, bravo vostro. Ogni volta che compro qualcosa io me la farò pagare a prezzo pieno. Non mi devo vedere manco se compro anche. Ma non farvi. Non mi sei venuto a me, lì mi. L'ho attaccato all'Elbex e funziona con l'Elbex. Capito? E se no, niente. È la stessa cosa quando devo riparare un telefono anche. Se la spesa è quella, cosa mi tiri il prezzo? Poi se lo voglio fare io, dimmi io se posso fare pure gratis, capito? È così, vabbè, la gente tira sempre il prezzo qua, sempre. Ma no, sempre tirato il prezzo. Io molte volte le matte anche dai cinesi, altri dai cinesi, e così sapete quanto spendere. Giusto. Infatti, io ho preso lo spunto da quello tuo, ti ho messo 120, 120 l'ho messo io. E tu mi presento, 100 euro non te lo do. Come la futti in onda? Così gli MB microfono, non sai quanti ne ho? Tutti a regalo li vuoi? E io non volevo, c'ho un MB più 5 in più. Io gli ho telefonato stesso questo qua, non dico il nome, 40 euro. Ma tu hai già visto, dice vai, compra, me lo compravo per 78 euro, e 78 euro vanno 40 euro. Il mio non volevo, 140 euro. Dai, 50 te lo do. Io per 40 euro rimane dentro l'armadio, ma non solo quello, tutti gli altri. Bene, diciamo che la gente, non sai a me quante volte mi rompono le palle, tra virgolette, perché ho la roulotte in vendita, no, e poi la vogliono prendere, la voglio vedere, la vogliono guardare, la vogliono fare, cazzo, alla fine mi sono rotto le palle, ascoltate, io guarda, sono anche stanco, siccome la sto utilizzando come, non dico ripostiglio, però qualche scatolone da smaltire di roba dei bambini, no, quindi l'appoggio lì, poi quando il momento la porto alla chiesa, la porto ai bisognosi e quant'altro, però il momento è lì, questo scatolone fa dalla ruota a dentro la macchina di mia moglie, da dentro la macchina di mia moglie a dentro la ruota, alla fine mi sono rotto le balle e ho detto scusate, se la volete vedere sappiate che ci sono dei scatoloni dei bambini e non sono lì a toglierli, perché tanto è diventato un lavoro per me, per tutta la gente che è venuta qua a vederla, e poi magari trovava la scusa che o era troppo piccola o questo o quest'altro, quindi non mi interessa più lavorare per queste cose qua. Se vi interessa è così, no ciccia. Ti blocco, non faccio più vedere niente a nessuno, non faccio provare più niente a nessuno. Me lo fai provare, poi te lo pago. Cazzo da sì, ma la Sicilia si comprendi. L'Anguria è alla prova, io non ti ho fatto provare niente. Io ti dico che funziona, che il microfono funziona, che la radio funziona, che questo funziona e te lo do. Mi dai ritiraccia, arrivederci. Ok, come fanno su subito o su internet? La prova è l'Anguria. Vai, mi sono rotto. Ma non sa quei telefonatevi. Capito? Siccome c'è un sito, io appartengo a un sito dei vintage. Cazzo, tutti, e quello me lo dai, e quello me lo vendi, e quello me lo vendi, ma non te nandi. Tanto c'è un microfono, io non ce l'ha nessuno, se solo Walter ce l'ha, quello del Persips originale. Mi ha chiamato proprio uno, c'ho l'armadio, mi serve quel microfono, 100 euro, 100 euro. No, esiste, te lo regalo. Microfono originale da base. Cazzo, tutto in ferro cromato, ma non sta lì, e se no quello della gay, la stessa cosa, un altro, invece io ho la radio, tu c'hai il microfono, infatti tu tieniti la radio, io mi tengo il microfono, perché se non mi dai 80 euro, non te ne do il microfono. Avanti. Avanti. Claudio, scusa un secondo, puoi fare un QTC nel canale 37? A chi? A te? Ci sono io con Davido, ti voglio far ascoltare una cosa. Certo, un attimino che mi sposto. Ciao Gianni KP2, buonasera, non so chi ti sente. Avanti, doppio rumo se senti a KP2. KP2, buonasera. Thank you. Sì, sono passato, Gianni, se sta arrivando 9 di segnale, ma sei saturo di radio. Tappa. Non so come ti stia arrivando io, che sto provando un altro baracchino che mi stava fischiando il microfono, adesso l'ho messo a posto, dai. Guarda a vedere che ha abbassato il mic gain, come sta arrivando lì. Va bene, dai. Sì, sì, sì, anche tu sei così, sei quasi 9, dai. Però sei un po' saturo già, anche quando te la allontani. Vabbè, riprenditi, non riprenditi.